5 minuti sta arrivando. e io usavo roba buona, farfalle al sugo, carne in verde, fettine in verde. Vabbè, il pizza non mi sa che faccio, stai sempre pubblicando pizze contro pizze. Tutti amate sì, cosa mi dici? La forza, unghia ghetta, l'H25, poi la pizza A, cosa devo su fa? Ah, ma noi ci devi mettere in treno. No. Luca, ma la pasta la fai tu quella lì? Allora, l'impasto sì. Ma è quello della barilla, no? Sì, la farina è la barilla, sì. E col bimbi non ci vuole niente a farlo, hai bimbi tu? A mano, cosa bimbi? Mezzo chilo faccio, mezzo chilo, 600 grammi. Sì, ma bisogna sapere anche fare l'impasto, non è cucino. Pure è buona, se lo so così, non so, è un esperto, però. Io non sto dicendo che tu non la faccia buona, però ho detto, bisogna anche saperlo fare, vuol dire che tu sei portato. Oddio, ho portato proprio, però ho lavorato in panificio, anche pasticceria, capito? Ci avevi le basi. Ma adesso internet c'è tutto adesso, sai che controllo la pasta, lì. Io già lo so, le fa anche mia figlia. Mia figlia fa biscotti, fa tutto qua. Guarda le ricette da internet e se le fa. Non ci vuoi niente a fare impasto. Io ieri sera sai cosa ho mangiato. Più che altro ti guarda la livette, sì, quello buonanotte. La lievitazione. Appunto, deve lievitare bene. Se no esce un pasticcio. Io rimani con le balle a ordinare più sushi. E oggi mangio più sushi a cena. Prego. Sono anch'io già. Allora ce l'ha portato Cocco, ce l'ho fatto le consegne a casa. Avanti il becco. Ciao, ciao Eugenio, ciao Gianni. Gianni, com'è questa la radio? Che è buona, sì, che è buona. Ciao, Fra. Sì, da Cocco l'ho preso, Eugenio. E anch'io, già è buona, Fra. È perfetta. Non le puoi dire niente. Da Cocco, fa le consegne anche qua con Tortoise. L'ho mangiato anche io ieri. A cena mia moglie l'ha ordinato a chiedere di Addio Messico, io non è ci vado fatto, però io mio figlio che ci va fatto, anche io non è che ci vado fatto, però qualche cosa mi piace, tipo i gamberetti, quelli arrosto, però non c'erano in questo menu che fanno loro. Io ho preso due banchette. No, il menu l'ha fatto mia moglie. Il menù l'ha ordinato, l'ha fatto mia moglie, cioè io ieri li ho mangiati quei gamberi in pastella, impanati, buoni, quelli mi piacciono. Ma sono io si parla. Cosa è da un bel piatto di spaghetti al sugo, ai sushi? Già è vero, anche io dico la stessa cosa. Ti ho detto a Marco, ma non è meglio andare al ristorante e mangiarsi un primo, un secondo? Intanto ci abbiamo speso sulle 60 e passami, due barchette. Sì, 60 euro, perché sennò la spesa deve essere minimo 40 euro. Dai 40 euro in poi, sennò non te lo consegno. Cioè, te l'hanno portato al portatore da Sassi. Ehi, fanno le consegne, no? Hanno i giorni prestabiliti. La domenica, il mercoledì, la domenica e mercoledì consegnano al portatore sui 70. Ah, ieri c'era lo sconto, il 20% di sconto c'è. Quello ce l'hai sempre già, ce l'hai sempre. Ce l'hai sempre perché fai. Non scendi meno del sotto, cioè non scendi sotto i 40 euro. Capito? Per raggiungere il 20% di sconto devi superare i 40 euro. E noi ne abbiamo superato la grana. Dice che non ti fanno pagare la consegna, ma c'è tutto gatto in mezzo a lui subito ti vado in bagata. No, da Cocco io ho sempre mangiato male, ci andavo anche proprio nei locali. Anch'io. Però poi ho cambiato e sono andato da Yumi. È più bello Yumi. Yumi è più bello. Sai dove è Yumi? No. Di fronte, proprio di fronte, leggermente più spostato, l'ingresso di... l'ingresso... del centro commerciale Tanit per salire ai parcheggi di su, quasi di fronte, leggermente un po' più avanti, ma leggermente un po' più avanti. Appagato. Vabbè, dai, passiamo a Franco, poi ti dico un'altra cosa. Avanti Franco, fai girare per lui. Capo, però stato pensando ancora a mangiare. Mamma mia, fai ingrassare, dai. Purtroppo quel pizza non si perde, Franco. Lo so, ma quando è troppo, un casino, ma ci vuoi fare. Bene, bene, avanti oggi. Un attimo mi sto spaccando la corona, un attimo che la sto prendendo. chiama Luca. Luca va. Luca. E comunque oggi io una volta mi ha convinto mio figlio perché da Cocò è mancata la luce e mio figlio voleva andare a mangiare, siamo andati insieme, ha detto no papà andiamo quello che c'è praticamente che via, via 4 novembre, quella zona lì. Siamo andati lì cavolo, da New Tokyo. Dopo un po' di tempo ho saputo che ne hanno trovato i pesci, i carabinieri li hanno trovato i pesci in terra, eccetera, eccetera, gli hanno chiuso l'occa. No, ma questa qua è una ragazza, guarda, la Cosco in gamba, quella Yumi è veramente in gamba. Un attimo, che sto, sono alle prese con le corona. Ma corona birra o corona corona? Corona corona, corona, aspetta un attimo, che leggo. Corona extra, cosa lì dai? Fa male quella. Ogia, ma ecco c'ha questa microfono. No, oh, adesso no. Voi a vedere adesso ce n'è, così sono aumentato un po' a prima la sonata. Sì, ce l'ha un po' adesso, ma non è proprio un eco, è un reverbero, dai. È un reverbero, anche così è un reverbero, lui è un reverbero. Aspetta che lo giro da dietro, giro un po' caccia via. Va bene, che microfono stai usando? L'M500. Ah, cavolo, Luca. Ok, lui è così, così aumenta, lui è reverbero. Sì, aumentare aumenta, però è sempre questo reverbero, non è proprio un eco, dai. Se lo abbassi appena appena magari diventa un eco. Ok, adesso lo metto di più. Com'è? Vieni a vedere. E adesso va meglio, abbassa appena appena appena ancora. Ok, adesso è a 2. Com'è? Non la tocca più. Ok. No, ho aumentato da dietro, ho aumentato anche un po', ma sì, c'è un coso dietro per aumentare l'eco. Ecco, adesso lo ce l'è, ma la radio è perfetta, non la toccare così, è perfetta la radio. Ah, ecco, non ce l'è proprio. No, ma io mi ho. Ok, dai, l'importante è che sia funzioni bene il microfono. È bello amplificato. Ciao bambino, mica bambino ti ha detto che ce l'hai toccato, non è chi? A me non piace così. Andiamo così e va bene lo stesso. Ripete troppo. Buongiorno. Buongiorno Claudio. In radio, non avete fame, io sto rientrando da Sorbia. C'è un caldo, minchia. Ok, ciao Claudio. Vabbè, adesso lo vedo un altro po', va. Vieni a così. Adesso è a 1.003. A 3, dai, a 3. Ok, adesso lo metto a 4. Ecco, adesso è a 4. Com'è? Lascialo stare così, fra che va bene. Ma quello metto da tu io questo? No, negativo. Sì, ce l'ho dato tu, avevamo detto. Cosa? Non va quello! Cazzo, c'è andata via, ma non anda più. Andata via, ma non anda più. No, ma c'è cacciavite qua. Ma cosa c'è? Rotto, rotto, vai. No! Ho lasciato una parte, ma è... come quella musica che gli avevano fatto, tutto un casino di vivere qua. Io mi sono malvizzato. Io così l'ho preso e così te l'ho dato, non ho manco provato quasi. Anzi, l'ho provato una volta con un baracchino, ciao Vanni, buongiorno. Però no, non mi sono accorto di niente perché non l'ho aperto. Vabbè, così stai andando bene comunque, cos'è questo Sorrento? No, l'M500. L'M600? 500. E l'ho dato tavola flessibile? Via, uguale a quella 600. Quello non lo conosco, io c'avevo il 600. Va bene, la salusi. Va bene. Vieni da lì. Chiedi da Vulcano, Cla. Cosa? Chiedi da Gigi. Ero da Gigi. Sentito, mi sembra che eri da Gigi Vulcano. Io ero a lavoro, ero a Olbia, Natali. Ah, Olbia, che cavolo. Via, via. No, no, Natali, io ero a Olbia, nel mio cantiere a Olbia. Abbiamo iniziato oggi. Non sono fisso lì, sono quasi sempre a Sassari, però ci abbiamo un cantiere anche a Olbia. Va bene, dai, che mi do una sciacquata e poi vado a pranzo, devo uscire di nuovo. Ci sentiamo, ragazzi, divertitevi la stasera se coincide, ciao. Pagana. Cosa, Manni? Lo sto combinando, lavorando, abbiamo ripreso oggi. Manni, io non mi fermo mai. Già messo in campo da Vipsi, no. Io devo lavorare, ci ho voglia di fare, bisogna farlo. Ok, va bene, dai, ci sentiamo ragazzi che vado a pranzo per poi alle 3 devo uscire di nuovo. Ciao a tutti. Ciao, di Franco, l'andrà così, ha detto che si riposa e campo da Lipsi, vero? Cazzo, hai lavorato un anno in più di me, ma ci ho lavorato 40, però tu sei più grandetto, quindi non hai più voglia, io ho maggio 60 e quindi oggi ho ancora il travaglia, perché mi piace fare. Certo, lavoro, a me va bene quello che mi danno. Sì, quello che mi danno manco lo tocco io. Fai bene. Fai bene. Ah, li lascio a mia figlia fra. Tu non hai migliori, io purtroppo ce l'ho e quindi è meglio lasciarle qualcosa, no? Va bene. Certo, intanto non te ne vai nulla di lui, come fa? Comparate le radio, lascia perdere, dalle figli. Radio, e allora, mangiare radio dopo. Lascia perdere, ne abbiamo tutti speso anche abbastanza, penso che ci siamo fermati un po' tutti, oramai non serve più a niente comprare radio, basta che ci avremo. Allora, Gianni. Ma la sua attualità si è tentato, là. Dico in genere, anche io sono tentato ogni tanto a incontrarne qualcuna nuova, però poi già mi blocco. No, già io ne ho preso una usata, ma usata bene, usata pochissimo, tra l'altro la conoscevo già, se no non ne avrei comprato. HF ne ho tre, diciamo, tre senza i cable, perché sennò diventano sei. Però due grandi per fare gli HF e poi gli altri sono quelle cable che conoscete. Ma basta così già, non conviene più buttare via soldi per le radio, cosa ne fai? A farci due chiacchiere così come facciamo noi. Io l'ho detto sempre, lo ripeto e lo ribadisco ancora, a me non mi ha fatto nulla a livello di amatore, a livello come fanno gli altri, compra, ma poi si tira in culo il radio. Vai, vada a mangiare, vai Vanni. Ma guarda Vanni, potrei anche comprare la verità, ma non me ne ha fatto nulla, non sono più come prima. Ho capito che sono soldi buttati e basta, perché quando c'hai tutto quello che ti serve, e io ne ho tanta di roba, e continui a comprare per mettere dentro l'armadio, non serve assolutamente a niente. Hai compreso? E come ti dici, mi si può pareggiare la Ferrari, vedi chi fa la Ferrari, era buona tratta, ma questa è la ghetta, a che non fare di nappa e scippa la benzina, è la stessa cosa. E vi dà una voce a Baro per comprare le bombe, a voi per quanti vita vi vuoi ancora di nappa, lascia perdere. Già ne conosco, non può assassare ma da altre parti. Dai, ci sentiamo ragazzi, ognuno faccia quello che le piace, io voto di su che mi aggrada. Ciao a tutti. Ciao Cla, frasi storiche. dai, ciao Manino, ciao Claudio, ciao Jenny, perché io devo mollare per andare a mangiare. Ci sentiamo, ciao, buon pranzo a tutti. Ciao, ci sentiamo, dai. Io mi sa che vado e compro la frutta adesso, dai. Ma come me la portano anche oggi? Ma non hai chiamato perché ti ho detto io? No, Cla, me ne sono dimenticato. Sono andato a fare la spesa e mi sono dimenticato le arance. Cazzo, sono tornato a casa e mi sono ricordato che non ho comprato l'arancia. Cazzo, e devo andare a torre a pigliare. Sì, ma se tu chiami a quello che ti ho dato io il numero, ti portano tutto a casa, tutto quello che vuoi ti ho detto. Quindi noi abbiamo fatto un altro ordine anche stamattina. Quindi 20 euro, dai, una ventina di euro. Frutta, verdura, tutto. C'hanno tutto, nel senso di decisione, prendendo torrenti, chiami e te la fai portare a casa la verdura. Ma poi te devo parlare per infatti vabbè, dai, ci sentiamo, c'è anche Natalino mi sembra. Ciao a tutti, ci sentiamo stasera se coincide, dai. Io le sedie sono a casa, ciao. Ciao, ciao, avanti, Santiago 7, la radio 3. Riccardo, ci sono io, mi arrivi 9, radio 5. È sicuro? Questa volta ti sento bene. In caso di... Ciao, e come mai non stai mangiando a quest'ora? Già mangiato. Guarda a te. Io non ho mai cucinato ancora, lui. Devo tornare ancora a abbinare l'acqua, vai in una mano, mi sono dimenticato. Ho fatto la spesa, mi sono dimenticato la fuga. E vabbè. Stasera che te la bici. Ma sai, no, che a pranzo io voglio le arance, c'è poco da fare. A me mi piace di trucco. E ma come vuoi allora? Vuol dire che mangerai più tardi. Sì, ma non c'è problema per questo. Ciao, ciao, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao. Buona appetito a tutti. Ciao, ciao.